vetrina, sì la vetrina. Sono stufo di vedere peli strappate per soddisfare la sfida della vincite, carne malata mi converte lo spero con un coglione di italiani. Ebbene, questi è una bella, un vergogna nazionale, va a vomitare. E che va bene se orgogliosa lascia posto da pensare si deve stimare. Vorrei vedere la sfida della vincite in vinto sguardo presso agli animali, appesi ai ganci nelle vie principali, di fate il filo di te. Di cadavere e piume e che loro fanno i coglioni.